Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Scegliamo i profili con le maggiori qualifiche professionali e la più alta percentuale di ingratitudine. Anche noi dobbiamo riportare in Italia il nostro patrimonio, altrimenti la generazione di suo figlio sarà l'ultima a sopravvivere in Italia. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Amo la tempesta. Oggi abbiamo scelto di iniziare la nostra trasmissione con questa commedia surreale ambientata in una Milano di periferia abbandonata dai suoi giovani talenti e popolata da padri e madri malinconici che meditano di riportare a casa i propri figli, divenuti nel frattempo affermati ricercatori universitari all'estero. Dall'idea all'azione con ratto dei talenti espatriati. Non vi diciamo di più sulla trama, il resto lo scoprirete al cinema. Noi ora vi anticipiamo quello che ascolterete in questa puntata che ci porterà fino in Messico. Si focalizzerà sull'importanza di un percorso internazionale per dare slancio alla propria carriera. La frase della settimana è ancora una volta copyright del presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone. C'è un rapporto tra paesi corrotti e quelli che hanno meno ricerca e di conseguenza fuga dei cervelli. La corruzione è un sistema antieconomico perché è anticoncorrenziale per eccellenza. È un meccanismo che nega spazi all'innovazione e al merito. Se vinco un appalto perché legato alle lobby, che motivo ho di essere bravo? Così Cantone, secondo il quale, insomma, la corruzione causa la fuga dei cervelli dal paese. E oggi in primo piano il recente rapporto annuale dell'Istat ricco di spunti. Innanzitutto, la popolazione italiana diminuisce e invecchia. Gli over 64 sono 161 ogni 100 giovani. Il nostro paese è tra i più vecchi al mondo. E poi, lo scorso anno in Italia erano più di 2,3 milioni gli under 30 inattivi, di cui 3 su 4 vorrebbero lavorare. Oltre un ragazzo su 3 tra gli under 35 è sovraistruito, troppo qualificato per il lavoro che svolge. La quota è 3 volte superiore a quella degli adulti e, paradossalmente, laurearsi non aiuta più così tanto a trovare lavoro. Il tasso di occupazione di un laureato 30-34enne dal 79% del 2005 scende al 73%, 10 anni dopo. Anche per questo, rispetto a una ventina d'anni fa, sono quasi raddoppiati i giovani che, a 3 anni dalla laurea, non cercano lavoro perché la maggior parte di loro ha deciso di continuare a studiare. Tra i giovani è più diffuso il part-time, soprattutto involontario, e a chiudere il cerchio le crescenti difficoltà fanno sì che nel 2014 oltre 6 giovani su 10 under 35 vivessero ancora a casa coi genitori. Intanto il 42% sogna un futuro all'estero. E c'è chi dai sogni passa all'azione. È il caso della storia di oggi. È meglio nuotare male, ma nuotare, che arrendersi. Quindi continua a provarci. Luca Torosani, 30 anni, è un manager per una multinazionale della consulenza in Messico. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Nel 2013 26.000 laureati hanno preso la strada delle regioni centro-settentrionali, 7.000 in più rispetto al 2008, lo evidenza uno studio Censis. Sempre nel 2013 altri 5.000 laureati hanno lasciato il mezzogiorno per andare all'estero, quindi in un anno 31.000 dottori hanno deciso di spendere altrove l'accumulazione di competenze acquisite nel proprio territorio di origine, determinando un ulteriore impoverimento degli assets disponibili per il mezzogiorno, afferma lo studio. L'Italia è il paese europeo col tasso più basso di popolazione attiva, l'unico dove rimane sotto il 65% e detiene anche il record per il tasso più elevato di scoraggiati, coloro che non cercano più impiego. E quanto emerge dall'ultimo rapporto pubblicato dalla Commissione europea, conferma Eurostat, nella penisola è inattivo il 41% dei disoccupati, più del doppio della media comunitaria, decisamente sopra tutti gli altri paesi. È un problema, lo abbiamo spesso sottolineato, è anche quello del cosiddetto skill mismatch. Secondo uno studio Data Giovani, ben il 28% dei laureati italiani è occupato in un impiego non adeguato al proprio titolo di studio. Questa tipologia colpisce maggiormente le donne e le discipline umanistiche o scienze sociali, lo riporta il Sole 24 Ore. Sono 43 i ragazzi molisani laureati in partenza verso diverse mete europee per seguire tirocini formativi finanziati dalla regione sull'internazionalizzazione. Il progetto si chiama Vado e Torno. I 43 potranno fare non solo un'esperienza all'estero, ma anche gettare le basi per quando torneranno in regione. In particolare, per chi trascorrerà 6 mesi oltre confine, c'è la possibilità di ottenere un'agevolazione pubblica per costituire un'attività imprenditoriale o un bonus occupazionale. L'Europa ha distribuito 650 milioni a 277 ricercatori top. L'Italia ancora una volta dimostra di essere un'ottima fucina di cervelli, piazzandosi al terzo posto con 26 ricercatori che hanno conquistato gli ambitissimi Advanced Grants assegnati dallo European Research Council. A rivelarlo il Sole 24 Ore Scuola. Le notizie positive finiscono però qui, perché se è vero che siamo bravi a formare cervelli, non siamo altrettanto capaci ad attrarli. Dei 26 ricercatori italiani vincitori, 8 hanno deciso di fare le valigie e solo uno straniero ha deciso di venire qui. Qualcuno però torna sempre in tema di mobilità europea. Commissione ed Europarlamento in Italia hanno lanciato la campagna EU-Factor, progetto che si rivolge ai ragazzi tra i 16 e i 19 anni per sensibilizzarli allo studio delle scienze, della tecnologia e dell'informatica, indirizzandoli verso percorsi formativi e professionali che offrono maggiori opportunità. Percorsi che spesso passano dall'estero per poi tornare. È il caso di Marco Micheli, ricercatore trentenne per l'ESA in Italia dopo un percorso negli Stati Uniti. Ci spiega perché è rientrato. Nel mio caso quello che mi ha spinto a tornare in Italia è stata un'occasione che ho avuto di riuscire a fare esattamente il mio lavoro, il lavoro che ho sempre sognato qui in Italia. Nel momento in cui ho scelto questa attività lavorativa pensavo che mi avrebbe portato a vivere all'estero, in giro per il mondo per tutta la vita. Questa occasione mi ha permesso di provare a fare questo lavoro qui nel mio paese ed è stata sicuramente una chance da non perdere. Il 40% di chi consegue un Master Erasmus Mundus trova un lavoro a tempo pieno entro 2 mesi. Lo rivela una recente indagine della Commissione europea sui neolaureati del programma comunitario che prevede un percorso di studi post-universitari biennale in diversi istituti. Destinazione esotica questa settimana, giovani talenti, vogliamo fino in Messico per parlarvi dell'importanza di un curriculum veramente internazionale, costruito da zero, come ci insegna la storia di oggi. Nome: Luca. Cognome: Torosani. Età: 30 anni. Città di origine: Brescia. Studi: liceo scientifico, poi una laurea in Bocconi, legislazione ed economia. Anno in cui hai lasciato l'Italia: varie volte, tra il 2006 ed il 2009 e poi definitivamente nel 2012. Per andare dove? Canada, Costa Rica, Porto Rico ed ora in Messico. Perché? Per opportunità di lavoro davvero irrinunciabili. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono manager del Desk Italia in PwC Messico. Dove? A Città del Messico. Tornerai? Sì, certo, per qualche anno però. Meglio fare chiedere scusa che chiedere permesso. Dietro questa massima che usi e ami ripetere coi tuoi collaboratori, Luca, quale filosofia si cela? Beh, la mia filosofia lavorativa è quella di continuare a provarci, no? Di avere coraggio, di essere determinati, nel non arrendersi. E come dico sempre ai miei collaboratori, è meglio nuotare male, ma nuotare, che arrendersi. Quindi continuare a provarci. Permettiamo subito che questa sarà una puntata dalla forte impronta internazionale. La tua storia prende le mosse con un trasferimento a Milano per studiare economia e legislazione d'impresa alla Bocconi. Perché questa scelta? Non volevo andare in Bocconi all'inizio. Ero assolutamente interessato all'Università di Teramo per un corso da procuratore sportivo, no? Ma poi quando ero in Abruzzo con i miei genitori ho ricevuto una chiamata all'università che ero stato ammesso dai corsi, diciamo, preparatori, e quindi insomma ho fatto questa scelta di andare in Bocconi, anche perché studiare economia e giurisprudenza in contemporanea mi avrebbe, credo, aperto scenari interessanti in entrambi gli ambiti futuri lavorativi. Dobbiamo precisare che la tua esperienza universitaria assume immediatamente contorni molto internazionali. Perché? A Milano vivevo con un ragazzo del Lussemburgo, che era membro dell'ISEC in Lussemburgo, e dopo che avete insistito notevolmente ho deciso di conoscere l'associazione dell'ISEC, fare una conferenza, e ne sono innamorato. Da quel momento ho deciso di riportarli in Bocconi, dove l'ISEC non era più presente, a circa 10 anni. Sono stato presidente per 2 anni e gestivo un team di circa 35 persone, tutti stranieri, e finalmente ho potuto imparare l'inglese. E allora nel 2006 la prima esperienza in Canada, sempre con ISEC. Per fare cosa, ma soprattutto quanto quell'esperienza è stata determinante nell'aprirti gli occhi verso una carriera globale? Sì, guarda, in Canada sono stato ad Halifax, una piccola città nord-est, per 4 mesi, lavoravo per le relazioni esterne dell'ISEC Halifax. Ho capito che il mondo è molto più grande che Milano, New York o la Cina, no? E soprattutto ho imparato a competere con talenti stranieri che hanno dei vantaggi rispetto a noi italiani, perché hanno sempre vissuto al di fuori della loro comfort zone. Esatto. E quindi ho potuto aprire gli occhi. E da lì è prendervi una serie di esperienze in giro per il mondo, nel 2007 in Costa Rica per uno stage, un anno dopo a Porto Rico come vicepresidente delle relazioni esterne di ISEC. Domanda dirimente: si riesce, ti chiedo, a studiare all'università in Italia e a fare anche esperienze sul campo contemporaneamente e all'estero? Perché ci sono docenti universitari che predicano la necessità assoluta di frequentare i loro corsi. Certo, guarda, da un certo punto di vista hanno ragione, perché ci sono alcune materie, non so, pensiamo alla macroeconomia, alla statistica, che davvero sono importanti, bisogna studiarle all'università frequentando le lezioni. Altre materie però credo fortemente si possono apprendere lavorando, learning by doing, no? Quindi facendo e mettendosi alla prova quelle conoscenze acquisite sui libri nel giorno per giorno. Io questo l'ho potuto fare in ISEC, nei vari paesi in cui sono stato. Nel 2014 ti laurei, allora il tuo voto personale all'università italiana da 1 a 10? Se mi permetti ne darei 2, uno a livello teorico di preparazione darei un bel 9, per quanto ci riguarda la preparazione e l'ingresso nel mondo accademico purtroppo un insufficiente, un 5. In quell'anno, 2 anni fa, rifondi l'associazione alumni di ISEC, che tra poco andiamo a conoscere meglio, e in quel momento ti chiedo, hai pensato, al di là della tua spiccata vocazione internazionale, anche a una possibile carriera in Italia, e ti sono giunte offerte di lavoro dalla penisola? Sinceramente no, non ho mai cercato lavoro in Italia e per questo credo non abbia mai ricevuto neppure un'offerta, e devo essere sincero, ad oggi io non ho un curriculum vitae, non ho mai avuto uno e non credo di averne bisogno. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Luca Torosani, 30 anni, manager per una multinazionale in Messico. Una carriera globale fin dall'università, quella di Luca, che in questa puntata ci offre uno spaccato di una generazione pienamente internazionale e come farne parte in poche essenziali mosse. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti. Non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. E così si rivela fondamentale un meeting a Città del Messico. Come vieni assunto nella multinazionale dove ti trovi ora? Sì, ero a Città del Messico per una conferenza dei direttori dell'ISEC Alumni del mondo, stavo rappresentando l'Italia, e il responsabile dell'ISEC Alumni Messico è un partner di PwC. Dato che il fondatore del Desk Italia, Mariano, stava lasciando il Messico, durante una cena a casa sua mi ha detto: io ti vorrei assumere, senza aver visto curriculum, perché appunto non ne ho. Ho accettato immediatamente e dopo 8 mesi mi sono trasferito a forme indeterminate in Messico. Ed ecco che con questo episodio introduciamo un concetto importante, che è quello del network, che è ben diverso però dalla raccomandazione all'italiana. Ci spieghi in modo sintetico perché? Sì, guarda, per me il network non è nient'altro che un asset, un intangibile che distingue il buono dall'eccellente. Fare network significa, secondo me, farsi trovare al momento giusto nel momento corretto, significa mettere insieme la domanda e l'offerta, significa che in ogni persona con cui ci si relaziona si può vedere un possibile cliente, un possibile fornitore o un possibile datore di lavoro o un collaboratore. Quindi il network, cioè, è un asset su cui bisogna lavorare per poter avere una spiccata carriera internazionale di successo. La raccomandazione all'italiana invece sappiamo bene cos'è ed è ben diversa. Nella multinazionale entri da stagista, ma il tuo percorso di carriera è rapidissimo. Dopo il primo anno a stagista dici: sono stato assunto a tempo indeterminato e dal 1 luglio sono anche candidato a diventare dirigente. Allora, come funzionano le carriere all'estero, Luca? Secondo me è più facile fare carriera all'estero rispetto all'Italia, però, ecco, c'è un però da dire, bisogna avere coraggio, determinazione e provarci. All'estero permettono ai giovani di provarci, di sbagliare, però bisogna avere quel pizzico di incoscienza, quella determinazione di non mollare mai, non arrendersi e anche di fronte ai no continuare a provarci. Quindi è più facile, ma bisogna essere un pochino pazzi per riuscire a fare carriera all'estero, ma ce la si può fare. Stay angry, stay foolish, diceva Steve Jobs. Di cosa ti occupi esattamente, anche oltre al tuo lavoro principale? Faccio diverse cose. Nel Desk Italia sono responsabile e ho 11 collaboratori italiani in cui offriamo servizi di PwC alle aziende italiane già presenti in Messico. Inoltre sono relatore in diverse conferenze in Italia ed in Messico per attrarre nuovi investimenti italiani. Inoltre sono nel consiglio di amministrazione della Camera di Commercio italiana in Messico e da agosto sarò anche docente all'università. Insomma, molto attivo, e c'è un punto importante nella tua storia che è quello, lo abbiamo rimarcato più volte, dell'internazionalizzazione, un passaggio quasi obbligato per lo sviluppo dei talenti, lo definisci. Perché e quanto vedi sviluppata l'internazionalizzazione nel nostro sistema educativo? Parlando di internazionalizzazione vorrei differenziare due cose. Anzitutto, la prima, gli Erasmus, che è la prima forma di internazionalizzazione, servono per lo studio, ma non per il lavoro. Per me è importante iniziare a lavorare all'estero, quindi l'Erasmus ben venga, ma è meglio fare degli stage curricolari all'estero per poter mettere in pratica le conoscenze acquisite in ambito universitario. Secondariamente, l'internazionalizzazione è uno step obbligatorio per qualsiasi talento che davvero voglia confrontarsi con il mondo del lavoro internazionale. Il mondo del lavoro ormai non è più l'Italia, non è più neanche l'Europa, è il mondo. Sono i paesi in via di sviluppo soprattutto, in cui i ragazzi iniziano a lavorare sin dalla tenera età. Ecco, infatti, concetto importante, Luca, al di là delle destinazioni classiche che conosciamo, Gran Bretagna, Germania, Svizzera, Stati Uniti, quali sono le mete su cui puntare adesso? Attualmente i paesi più importanti dove le aziende italiane stanno investendo e quindi stanno attraendo giovani talenti sono innanzitutto il Messico, da cui sono presente, la Colombia, la Turchia, l'Iran, la Russia, il Sudafrica e l'Indonesia. Questi sono i destini dove i giovani dovrebbero internazionalizzarsi, a mio avviso. Giovani italiani che devono avere fame, no? Assolutamente, la fame è la condizione sine qua non per avere successo. Il mondo, come dicevo prima, non è più né Londra, né New York, né Beijing. Per affermarsi serve determinazione, capacità di sacrificio, uscire dalla comfort zone, mettersi alla prova, parlare almeno 3-4 lingue, che ormai è diventato così scontato, no? E avere quel pizzico di curiosità per cercare una carriera professionale, che è facile trovarla, ma bisogna provarci. La nostra domanda di rito, Luca: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire. Ho avuto la fortuna negli ultimi anni di poter cenare con gli ultimi 3 primi ministri d'Italia. L'Italia per me è un paese splendido, fantastico, lo amo, e il mio sogno è quello di tornare appunto in Italia in qualità di primo ministro tra qualche anno. Proviamoci, no? La proposta concreta è la seguente. Svolgere un semestre all'università obbligatorio all'estero di lavoro. Ci raggiunge ora in linea Beatrice Pesci, presidente di AIESEC Alumni Italia. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora Beatrice, quante storie come quella di Luca potremmo raccontare in AIESEC Alumni? Innumerevoli. Beatrice, molti conoscono AIESEC, magari meno conoscono AIESEC Alumni. Chi siete e cosa fate esattamente? Allora, AIESEC Alumni International non è altro che il network di tutti quelli che hanno lavorato attivamente in AIESEC nel corso di questi 70 anni di storia. E la mission di AIESEC Alumni è far sì alla fine che questo percorso, diciamo, di crescita e di sviluppo che ha seguito anche Luca in questi anni e non si interrompa, no? Prosegua nel corso della vita. Allora Beatrice, a differenza di Luca, tu sei rimasta in Italia a lavorare e quindi ti chiedo quali differenze di opportunità ci sono in termini di carriera e professionali tra il nostro paese e l'estero. Allora, intanto gli anni in cui io ho iniziato a lavorare erano i primi anni 90 e sicuramente le opportunità c'erano in Italia quanto c'erano all'estero, quindi era più un discorso di scelta personale. Adesso è chiaro che le opportunità all'estero forse sono molto più di quelle che sono in Italia, ma quello che vedo io di molto diverso è quello che ha detto Luca, cioè all'estero un giovane ha molto più possibilità di mettersi in gioco e di crescere velocemente. Se un giovane ha voglia di prendersi delle responsabilità, ha le sue aspirazioni, vive secondo dei valori sani, di sana competizione e è disposto a mettersi in gioco, sicuramente cresce molto molto più velocemente di quanto si faccia in Italia con gli attuali sistemi manageriali nelle nostre aziende, che sono secondo me ancora molto molto arretrati. Grazie a Beatrice Pesci, presidente di AIESEC Alumni Italia. E domanda di rito per Luca Torosani: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Un paio direi. Il primo è quello di non accettare no. Il secondo è quello di coltivare la curiosità, essere coraggiosi, sognare. I limiti credo davvero che non esistano. Qualsiasi cosa che si può immaginare si può ottenere, sempre quanto con determinazione, duro lavoro, come dicevo prima, uscire dall'area di comfort, think out of the box e continuare a cercare, non arrendersi mai. Torna con questa puntata la nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un funzionario addetto alle relazioni con l'Unione Europea presso lo European Molecular Biology Laboratory di Heidelberg in Germania, scadenza per il CV 5 giugno, info su embla.org/jobs. Un avvocato associato in diritto europeo presso WWGB Advocaten a Bruxelles in Belgio, scadenza per il CV 15 giugno, curricula amena.alves@wwgb-law.com. Infine un ricercatore postdoc in ingegneria quantistica alla Aalto University di Helsinki in Finlandia, scadenza per il CV 31 maggio, info su aalto.fi. Siamo giunti ad Expat, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Oggi, come ogni ultimo sabato del mese, spazio alle vostre lettere e riflessioni. La parola va alla nostra ascoltatrice Francesca, che invia a giovanitalenti@radio24.it una sferzante denuncia sulle mancanze del sistema Italia in termini di opportunità per chi ha alle spalle un curriculum internazionale. Torna sempre il problema dell'attrattività del sistema paese, insomma, voi continuate a scriverci. Ora la lettera di Francesca. Buongiorno. Io e mio marito, dopo circa 7 anni passati a lavorare e vivere all'estero, Svizzera e Nuova Zelanda, con posizioni di crescente responsabilità, nel 2013 siamo rientrati in Italia perché volevamo provare a lavorare di nuovo qui e contribuire alla crescita del nostro paese. Lui ingegnere geotecnico, io specialista in comunicazione e marketing con più di 12 anni di esperienza, qualche progetto interessante a farci da referenza, eccetera. Dopo aver provato a fare consulenze, entrambi con poco successo, siamo di nuovo in partenza per la Svizzera, con contratto a tempo indeterminato già firmato. La mia impressione è che il sistema Italia non sappia cosa farsene della nostra professionalità. Siamo entrambi quarantenni e per la nostra età abbiamo ricoperto responsabilità che qui sono riservate ai cinquantenni. Forse abbiamo un profilo troppo internazionale per l'Italia, dove non ci sono molte grosse multinazionali abituate a lavorare con expat. Io ho lavorato qui 6 anni nella stessa multinazionale con cui poi mi sono spostata in Svizzera e mai avrei fatto la stessa carriera con la medesima rapidità. È un peccato, perché molte risorse lasciano. Nella nostra famiglia, quelli della mia generazione sono tutti emigrati per lavoro. E il mercato del lavoro rimane molto immobile, con stipendi inadeguati alla professionalità. Ci auguriamo sempre che possa cambiare, senza lamentarsi. Noi saremo pronti a contribuire facendo del nostro meglio. Nel frattempo, ce ne torniamo in Svizzera, poi chissà. Buon lavoro e buona modernità a tutti. Un motivo per restare o tornare. Piccole gocce nel mare dei controesodati. C'è chi ha deciso di svolgere in Italia la ricerca per la quale ha ricevuto un finanziamento europeo e chi, fuggito all'estero, è poi tornato sui suoi passi. Da oltre confine il Ministero dell'Istruzione è riuscito a richiamare, in 3 anni e con un pacchetto di incentivi, 343 persone. 85 avevano lasciato il bel paese grazie a un finanziamento dello European Research Council. Intanto la Fondazione Con il Sud ha stanziato oltre 3 milioni per finanziare 11 progetti di ricerca applicata proposti da altrettanti giovani studiosi italiani e stranieri per studi da realizzarsi nei centri di ricerca delle università meridionali. I ricercatori selezionati, tra cui ci sono 2 stranieri, età media 38 anni, hanno condotto la propria attività all'estero o nel centro nord. E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Giovani Talenti o nella pagina Giovani Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Immigrazione Giovane. Dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di maggio. Dati aerei alla mano. Oltre la metà degli immigrati italiani nel 2015 aveva tra i 20 e i 40 anni. È la prima volta che succede nella fase più recente di espatrio. È un'immigrazione sempre più concentrata nella fascia giovane e produttiva della popolazione, secondo voi? E se sì, questo nasconde più rischi o opportunità per il sistema paese? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum, scriveteci giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40, espatriati, magari ci state ascoltando online dall'estero, scriveteci candidati@giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.